È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Rido, rido di tutto rido, non faccio apposta rido, questo è il mio mestiere. Naturalmente l'hai voluta tu questa canzone, no? Beh, azzeccata, no? L'hai voluta tu questa canzone. Rispetto alle notizie di oggi. I soliti di sinistra che piacciono a te, no? Ah, perché Sarkozy è di sinistra? No, che c'è da la Merkel la, quello di che sinistra? Fa la canzone, quello che canta. Enzo Iannaccio di Milano, per giunta, di Milano, Enzo. L'hai voluta tu questa canzone, dimmi la verità. Le risate di Merkel adesso, Sarkozy. Sarkozy è di sinistra? No, che c'entra? Sbeffeggiato il nostro paese, dai, raccontala. Ma ancora. Secondo te ridevano dell'Italia o dell'affidabilità dell'Italia o di Berlusconi? Perché questo poi comunque è ti piace così, guarda. No, che ti piace così se ti piace così che ridono di noi. Risata, ridono di noi e ti piace così. La risata di... Ti piace a te, va bene. La risata di Merkel Sarkozy. Qu'avez-vous dit exactement a monsieur Berlusconi? Est-ce qu'il vous a... donner des engagements sur de nouvelles réformes en Italie, est-ce que vous êtes rassuré après l'avoir entendu alors que l'Italie est de plus en plus dans la ligne? Siete rassicurati da Berlusconi? Nous étions ensemble dans ce rendez-vous. Et comment dit-on, nous faisons confiance au sens de la responsabilité de l'ensemble des autorités. Risate in platea e risate da parte di Sarkozy e Merkel. No? Sì, sì, ho sentito. Alla moralizzazione della sessualità. Guarda che anche nell'opposizione c'è qualcuno che ha detto non si ride così del nostro paese. Comunque è sbagliato. Ma è sbagliato. Perché devo dare ragione all'opposizione? No, me lo dici come. No, assolutamente. Io sono oltre l'opposizione di questo paese. Va bene, va bene. Cioè. Però è straordinario il duello Pannella-Lucia Annunziata. Beh, ieri. Questo è tanta roba. Questa è tanta roba. Via, facciamo sentire qualcosa, su. Mi piacerebbe parlare. Ma tu di, sei, di tu quello... sei come gli altri italiani. Certamente. Non sanno sono nulla. Sono felice di io essere come dicendo, gli altri italiani. Io sto dicendo, dimmi. Che a questi che mi hanno insultato e gli altri sono d'accordo. Io dico sono italiani, brava gente. Io stesso al loro livello di informazione sarei stato con loro per sputare contro di me. Cose pazzesche. Sputare contro ma di me. Ma qualsiasi momento va bene perché è un duello continuo. A un certo punto l'annunziata dice: sono passati 20 minuti, ancora stiamo parlando di 5 anni fa. Sono passati 10 minuti, ancora non ti sei fatto capire. Questo è il vostro Marco, regime. Marco, questo, io, questo è il vostro vabbè, regime. Vabbè, che scocciatura. Se vuoi andare tu, no. Ascoltami, vai, io. Non arrabbiarti. Io. No, non mi arrabbio, ma ti sto allora dicendo. Va bene, no, io siamo al ventesimo minuto. Temevo guarda, che ti arrabbiassi. Io sono stata, ma figurati, io sono una persona che si arrabbia mai. Ecco, adesso allora, mi viene fuori io il sono il stata, ascolta, sul e quindi processo 15 breve, parlamentari, dite? Partiti, solo 15 a favore di Emma e gli altri. Senti, stiamo ancora parlando dei candidati di D'Alema. Anni fa, 5 anni fa, D'Alema e robe di questo genere. Allora è impossibile, diciamo la verità, in questo periodo. Ma quasi sempre, in realtà è impossibile fare un'intervista lineare a Pannella in cui no, lui ha bisogno di, è un dis, cioè, ha bisogno di dice, molto com'è che dice, com'è che dice? Devi farmi una domanda per specifica. Allora, onorevole Pannella, ma lei cosa pensa in questo momento della riforma delle pensioni proposta dal governo? Le pensioni noi dicevamo già prima con Don Benedetto, Benedetto Croce, con Pasolini nel 1945 prima e Gramsci poi con Togliatti e la partitocrazia, il sistema dei partiti vabbè, non mi è d'accordo o no? È d'accordo ladro o no? Di verità, ladro di giustizia, ladro di diritto, è così, la è partitocrazia così. Della Confindustria, okay, non ha la risposto, il confpartito di Cruciani. È tutto così, Pannella, è tutto così. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Prima di presentarvi un ospite, ancora Di Pietro. Che però è qua, è già in studio. È già in studio, Scilipoti. È che... una donna, diciamo. D'accordo, su questo siamo d'accordo. Di Pietro, Scilipoti, che Dio mi perdoni. No. Addirittura. Il signor Scilipoti, Scilipoti, che io, che Dio mi perdoni, che Dio mi perdoni. Ma chi l'ha candidato, Di Pietro, chi l'ha candidato il signor Scilipoti? Le sto dicendo che Dio mi perdoni. Vabbè, io la perdono. Non mi basta lì, ci vorrebbe il povero italiano. Ho capito io. Poi per l'amor di Dio possiamo andare a vedere. addirittura mettere in campo Dio su Scilipoti mi sembra esagerato. E un'ultima cosa che voglio farvi ascoltare è uno scatenato Oscar Giannino contro il governo. Le nostre idee in questo periodo, bisogna sempre sentire Giannino contro il governo, è caldissimo. Le nostre idee sopravviveranno alle loro cazzate. Pensate che sia perché voglio che vada a casa a centrodestra, perché voglio la patrimoniale a centrosinistra? Allora non capite proprio niente se pensate questo. Io sono perché chi la pensa come me abbia diritto di identificare i sacri principi della difesa dello Stato liberale dei mercati, non con le stupidaggini personali degli attuali leader centrodestra. Perché grazie al cielo le nostre idee sopravviveranno alle loro cazzate. E siamo qui, poi più tardi ascolteremo altre cose, soprattutto uno scatenato paragone contro Stracquadanio sulla politica alla Rai. Come anche lotta, paragone. Duelli e altri duelli. È con noi Giustina Destro. Buonasera. Buonasera. Giustina Mistrello Destro. Ma perché sei sempre così attento a specificare? Precisi. Giustina Mirello. Onorevole, no, Mirello. Giustina Mistrello. Mistrello, Destro, Mistrello. Già Mistrello. Sindaco della mia città. Vabbè, questo lo stavo per dire. Già sindaco di Padova, fino a pochi giorni fa nel gruppo del PDL alla Camera. La prima domanda è questa: siccome lei non ha partecipato al voto sulla fiducia a Berlusconi il 14 di ottobre, a parte che stasera il governo potrebbe sulla questione delle pensioni, diciamo, cadere, no? Secondo i Boatos, ma poi lo vedremo. Ma al di là di questo, lei è ancora nel PDL o è uscita dal PDL? Mi dia una notizia su questo. In questo momento sono a tutti gli effetti ancora PDL. Cioè lei a bagnomaria, sta dicendo, no, in questo momento? No, ma non, nel limbo, anche perché nel limbo. Bagnomaria non mi piace. Nel limbo? No. Se la squilla cellulare, Berlusconi, è un processo di per passare a un gruppo misto. Come un processo per passare? È una fase di transizione. Transizione. Cioè una fase di transizione. Però scusi, quando uno passa dal PDL al gruppo misto, di solito fa tic e passa così. Non è che ci mette... Quanto ci vuole mettere lei per passare al gruppo misto? Pochi giorni. Pochi giorni. Vabbè, comunque, ci dia una notizia. Lei esce dal PDL. È fuori dal PDL. Diciamo fuori PDL, PDL. È fuori dal PDL. A PDL addio. Cioè non crede più nel PDL. No, adesso... non crede. Stiamo più. Calmi. Stiamo calmi. Stiamo calmi. Un attimo di riflessione, no? Nel senso che è stato un percorso e un processo... Tormentato? Sì, perché no? Ha sofferto? No, insomma... Sofferenze sono altre, no? Sì, è una cosa a cui ho pensato e riflettuto seriamente. Non condividevo... Però chiuda il telefono, che è meglio. Non condividevo... No, state tranquilli. Ma quante volte l'ha chiamata Berlusconi in questo periodo? Guardi, dal giovedì al venerdì, prima del voto, diverse volte. Diverse quante? Più di 10 o meno di 10? No, più di 10. Più di 10? E lei che faceva? Vedeva il numero Silvio? No, no, vedevo il numero del Palazzo Chigi o... E che faceva? Chiudeva? No, mettevo muto. Bellissimo, no! Bellissimo. Ma scusi, come faceva a essere sicuro che era Berlusconi? Beh, il numero del Palazzo Chigi si conosce. Vabbè, magari era, che ne so, Buonaiuti. Beh, Bossi, insomma, comunque, magari era Bossi. No, ma Bossi poi c'è stato qualche messaggino di richiesta di chiamare il presidente che aveva bisogno di parlare. Ah, lei metteva muto sul telefonino. Te lo vedeva. Perché non voleva nemmeno parlare con Berlusconi? Perché l'uomo poteva convincerlo. No, diciamo, no, no, no, è sua dente. No, no, no, è un perché po' sua ormai dente. No, ormai avevo fatto una scelta e penso che fosse inutile ascoltare qualsiasi conversazione. Tatanella, chiamiamola, no, Tatanella. Tatanella. Dai, Giustina, no, Turne. No, no, qualsiasi, certamente, però insomma non pensavo che fosse assolutamente inutile. Assolutamente inutile, cioè secondo lei Berlusconi non ha più la forza di, come, di convincerla su nessun tipo di ragionamento? Sa, se uno arriva a questo dopo quello che è un percorso di impegno politico, sì, nel quale io ci credevo, è arrivato il momento che non condividevo più, certo, nulla. Possiamo dire che è bollito tecnicamente? No, io comunque politicamente bollito. Vorrei sempre avere rispetto perché in tutti gli effetti è il presidente del Consiglio. No, per carità, quindi, certo. No, no. Però quindi, politicamente come lo si può definire? Finito? No, concluso. No, direi che politicamente non riesce ad avere il coraggio e la forza che aveva fino a 3 anni fa. Il Berlusconi che ho conosciuto io dal 94 al 2006 è un Berlusconi deciso, forte, che non si lasciava. Scusate, ci ha messo 5 anni, ha capito? Dal 2006 al 2011. Insomma, 2006, io credo, io ho fatto il sindaco fino al 2004. Devo dire che in molte cose il governo ha aiutato a raggiungere gli obiettivi che il comune di Padova, certo, ma da quando è che non ha nulla a dire politicamente, secondo lei, Berlusconi? Secondo da me, dopo la sconfitta del 2006. Dopo il 2006 non è più Berlusconi. Finito. Deciso, liberale che vuole fare le riforme. La campagna elettorale del 2008 è stata forte, ha fatto un risultato importante, ma poi secondo me non ha, pur avendo una maggioranza strepitosa che poteva fare quello che voleva sin dall'inizio, non ha fatto un tubo, diciamo, perché ha fatto poco. Io ha fatto poco e niente, poco, diciamo poco, poco. Diciamo poco sempre. Voglio capire una cosa, lei è ancora iscritta al PDL nel gruppo? No, non sono iscritta. Non è mai stata iscritta al PDL? No, sono stata iscritta fino a poco tempo la fa. No, la, no, la non l'ho fatta. La stracciata? No, la tessera, le vecchie tessere ce le ho. Perché Forza Italia? Forza Italia e PDL le ho. Oggi non ho fatto il tesseramento nuovo. Non ho fatto il tesseramento. Dunque non lo farà mai, evidente, perché ormai è fuori dal PDL. Ho fatto una scelta, la scelta è ma nel fatta. Gruppo, per esempio, no? Il gruppo, lei è ancora formalmente nel gruppo del PDL alla Camera? No. Beh, formalmente sì. Però quando è che farà questa annuncio? Vado nel gruppo misto, entro questa settimana. Allora, entro questa settimana entro al gruppo misto. Certo. Ho ripetuto entro due volte, ho fatto un errore, no? Entro. Entro questa settimana, entro nel gruppo misto, punto esclamativo. Dunque esce dal gruppo del PDL. Le pensioni, ossia, diciamo, per esempio, passo dal gruppo misto. Le pensioni, lei per esempio sulle pensioni, questa proposta la voterà? Questa proposta, se venisse fatta, la voterebbe? Ma certo, subito, immediatamente, solo che non arriverà. Come? Io ah, la Lega bloccherà tutto, secondo me. La Lega bloccherà tutto. La Lega è decisa e molto dura su questo. Ha una preoccupazione enorme, che è l'elettorato che lo sta perdendo. Beh, però l'Europa ci dice di farlo, come è possibile? Certo, ma questo che deve, in questo momento che Berlusconi deve puntare piedi. E se non è in grado, mollare il governo. Se non è in grado, deve fare un passo indietro. E dunque, secondo lei oppure un passo avanti e rovesciare tutto. Mandarli tutti all'aria. Però lei non come ci crede. Rovesciare tutto? Sì. Mandarli tutti all'aria e cambiare tutto. Ma lei non dice che non è in grado di farlo. Dunque, meglio che molli. Ma non si sa mai. Vabbè, se lei ha fatto questa scelta, significa che pensa che non è in grado di farlo, Berlusconi. Certo, però il mio messaggio è stato che non lo riconosco più, che non sta producendo il governo nulla di quello che ha promesso. Ma potrebbe rientrare, se lei potrebbe rientrare con Berlusconi? Beh, io stando nel gruppo misto sono lì, potrei votare quello che è giusto che... Ah, quindi dici Berlusconi, svegliati. Dai... Però... Rovescia il tavolo, mandi tutto a quel paese. Mandi tutto a quel paese. Torna il Berlusconi. Caccia un po' di gente. Per esempio, chi via Verdini. No, beh, Cicchitto, anche Cicchitto, mandiamolo via, dai. Caccia un po' di gente. Ma così è generico. Non voglio fare nomi. Rido di tutto, rido. Non faccio apposta, rido. Questo è il mio mestiere. Eccoci qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Con noi qui in studio a Milano Giustina Mistrello, l'onorevole Giustina Mistrello, adesso già sindaco di Padova e già del gruppo del PDL. Questa settimana gruppo misto, già del PDL come partito, perché non ha rinnovato la testa, è uscita dal partito. Battitore libero, così si può dire? Come si può dire? Ormai mi sento un battitore libero. No, Monte Zemoliana? Questa è un'altra non questione. Non ancora. Questo è interessante. Montezemolo è una identità politica in questo momento. Ormai sì, diciamo, non nascondiamoci dietro l'ipocrisia. No, non ha ancora deciso nulla. Come se lo fosse, sta aprendo circolo in tutta Italia. Lo seguirebbe? È una fondazione politica. Ma sì, ma lo seguirebbe? Quanto è vicina alle idee di Montezemolo in questo momento? Da 1 a 10? 10. E dunque farà se Montezemolo entrasse in politica, lei farebbe politica con Montezemolo. Come conosco i miei polli. No, scusa, non polli. Senti una volgarità intendevo inaudita. Intende come conosco le persone. Te l'ha chiamata pollo. No, cioè, mi sono molto molto offesa. No, sindaco, davvero chiedo, no, ecco. Onorevole, stavo scherzando. No. Come conosco le persone che conosco? Lo so che volevi dire come questo, ma sei stato offensivo. No. Scusati, onorevole Destro, scusati. Lei lo sa che siamo amici, ci conosciamo da tanti anni. No, amici, una roba grossa. Comunque, allora, se Montezemolo entrasse in politica sul serio, se facesse un suo partito... Le idee di Montezemolo in questo momento, diciamo il manifesto di Italia Futura, è un manifesto in quale io mi ritrovo al 100%. Benissimo. Allora io voglio dire una cosa, stai zitto, perché applaudi? Perché sei la clac? No, cosa sei? Ma... Perché io quando riconosco, siccome sono conosciuto come uno di sinistra, parenzo, quando vengono dette delle cose, secondo me, per il bene del paese, l'onorevole Destro. Che poi è un manifesto che è comparso anche oggi sul Corriere della Sera. Però facciamo Giannazzi, è il suo programma quello lì, no? È il suo programma. Allora, Allora, io dico una cosa, allora destro. In questo momento chi ha più da dare al paese, Montezemolo o Berlusconi, che sono quasi coetanei, diciamo la verità? No, quasi, pochi anni di differenza. Sì, no, sì, sono, un po' Montezemolo ne ha 64. Quello ne ha 75, 10 anni. Però comunque, insomma, non è un giovincello, signor Montezemolo, il signore col ciuffetto, là, col ciuffo, no? Beh, insomma, ciuffo, è una, elegante. Una persona distinta. Sì, più, più di Berlusconi. Più classe, forse più classe. Berlusconi del 94 certamente sì. Ecco, Montezemolo è più fine, più raffinato come persona rispetto a Berlusconi, come l'hanno definito il Barchese da Crozza l'altra sera. Non me lo ricordo. Chi? Il Marchese Berlusconi, dice sì. Lei? No, mi pare che Della Valle avesse detto che Berlusconi, Montezemolo è un Marchese. E noi siamo, non parlava di Berlusconi, noi siamo la gente semplice, insomma. Ma chi è il Marchese del Grillo? Io so io e voi siete un no, cazzo. No, adesso che... però no. No. Chi? Ma chi il Marchese? No, perché cosa... Ragazzi, perché parlate per cose? Siamo gente che ci sta ascoltando. Parlate per frasi fatte. Voglio dire, tra i due, chi è più fine, più... Chi è che le dà più sicurezza in questo momento? Non vorrei... Senza dubbio Montezemolo. Montezemolo, non c'è dubbio. Ma senza dubbio, credo. Allora, se lei... Se... No, credo. Gioia, quante volte... Quante volte ci ha parlato in questa settimana con Montezemolo? Però mi dica la verità, non mi turlupini. No, ci ho parlato anche ieri. Ci ha parlato anche ieri, ormai è pronto, è tutto fatto. Insomma. Beh, credo che tutto fatto non ancora. Però, insomma, sta lavorando. Sta lavorando per entrare in politica, alacremente, diciamo. No? Sta lavorando in maniera strutturale intelligente. Quando l'annuncio ufficiale, diciamo, quando ci saranno... Io credo che nel momento che si vedrà che... Quando si voterà, insomma. Si voterà, certo. Cioè il giorno prima. E lei che ruolo avrà con Montezemolo? Ma io cerco di rimanere un semplice cittadino. Cioè che responsabile in Veneto per montare una cosa del genere? No. Io cerco di dare il mio piccolo contributo al un ricambio di questo sistema politico. Senta, vabbè, detta così in politichese vuol dire lavorerò al fianco di Montezemolo. Non so dove, se in Veneto, a livello nazionale. No. Cosa le hanno offerto nel PDL per restare? Nulla. E ad altri cosa offrono? Ad altri hanno avuto molto, tanto, poco, dipende dai personaggi. Cosa fa Berlusconi per convincere le persone? Scilipoti ha avuto tantissimo, mi sembra. Visibilità. Insomma, ha avuto visibilità. Quanto le fa schifo Scilipoti da 1 a 10? Politicamente? Ma guardi, francamente è una persona semplice che giustamente ha giocato la sua partita, ha fatto bene, ha approfittato dell'occasione per esprimere il massimo delle sue qualità. Ma Berlusconi che va da Scilipoti le fa un po' di tristezza? No, trovo veramente ridursi a... Insomma, francamente, ho un po' di riserve. Su che cosa? Sul fatto che il presidente Berlusconi sia nato dalle Scilipoti, dopo che Scilipoti arriva dall'Italia dei Valori, che in aula faceva degli interventi pesantissimi. Su Berlusconi, certo. Capito? Lei è imbarazzata per la vita privata di Berlusconi? No, non mi interessa proprio. Non le interessa? No. Non le legge quelle cose? No, no, non, penso che ciascuno fa quello che vuole. Tanto lei non è il tipo di Berlusconi. No, ma io non sono il tipo di Berlusconi, pensa proprio di sì che non sono il tipo. No, assolutamente. No, non credo. No, che ne so, lui è sempre molto galante. Sì, come ma dicono. Penso che lui sappia distinguere, però. In che senso? Che sappia distinguere le persone. Ma torniamo a quella lista degli impresentabili. Di chi rideva, secondo me? Sarkozy, di chi rideva? Di Berlusconi, diciamo la verità. Ma io credo che ci siano anche degli... La cosa mi ha disturbato non poco, moltissimo. Perché in fondo un capo di Stato non può fare ironia, mancare di rispetto davanti a un contesto così internazionale. Io mi sono sentita offesa come italiana. Sì. Io credo che ci siano anche degli aspetti anche molto personali. Tra i due. Ricordiamo che Panorama fece un servizio non molto carino nei riguardi della moglie di Sarkozy. Carla Bruni. Credo che questo sia un elemento che abbia disturbato molto. E poi forse anche tutto l'aspetto della BCE, del Binismaghi. Ecco, ma secondo lei rideva però dell'Italia o di Berlusconi? No, io credo che avesse fatto un sorriso verso l'incontro che aveva avuto in mattinata con Berlusconi. Cioè, non è che rideva dell'Italia in generale, no, rideva per Berlusconi. No, anche perché lui ha fatto un passaggio molto interessante, ha detto io ho molta stima di tutti coloro che rappresentano l'economia, la politica e il sistema dell'Italia, quindi ha fatto un ampio. Andiamo a sentire i titoli del TG3, come ci riassumono, sempre secondo il TG3, la giornata. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Sulle pensioni lo stop della Lega, pronti a scendere in piazza, vertice con boss in via Bellerio prima dell'incontro a Palazzo Chigi. Riunione straordinaria del governo per le misure chieste da Bruxelles, ma Berlusconi avverte nessuno in Europa può darci lezioni. Non solo giro di vite sulle pensioni, per trovare le risorse in arrivo 12 condoni a asili nido in cambio di stipendi più bassi. Il PD, governo non più credibile, incontro Bersani-Casini, Marcegaglia inaccettabile, quelle risa Merkel-Sarkozy, Enrico Letta al TG3. Riforme subito per crescita, occupazione e giustizia, chiede l'Europa, voci su un piano di aiuti per l'Italia, ma Bruxelles smentisce. Il 90% alle urne nelle prime elezioni libere in Tunisia, valanga di voti per il partito islamico, bruciante sconfitta dei laici. Tornerà in Italia domani dalla Malesia il corpo di Marco Simoncelli, sotto osservazione le gomme e l'elettronica della moto. Tu, tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelli stufanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. E vabbè, co-co-co, cucurucurucurucu, qua. Non è un destro, lei che lo conosce da un sacco di anni. Cucurucurucurucu, qua. Beh, ma lui può farlo. L'avrebbe mai pensato. No, ma lui può farlo. Parenzo può farlo. Allora, questa è la zanzara 800-24-0024. Forse è l'unica cosa che posso fare. No, no, non volevo dire questo. Allora, direi di concludere raccontando una cosa, onorevole Destro, sì. Ma è vero che lei, anzi no, è vero, lei dava la sua tessera, la tua tessera da parlamentare al ministro Galan, che non è parlamentare. Ah, per tagliarsi i capelli? Per andare alla barberia, no, alla allora, parrucchiere questa della storia. Camera. Quante volte l'ha data sta tessera? No, una volta. Ma non è vero, più di una volta. Sentite, l'ha detto. Ma sapete cos'è questa cosa voi? Allora, la tessera è che uno va al bar, va dal barbiere e invece di tirare fuori i soldi mette la tessera e te la debitano. Quindi, dunque lei paga, lei. Ma quindi non è che lui sia andato gratis. Beh, ha pagato lei. Beh, gli ha offerto il taglio di capelli. Al mio ministro. Beh, ho capito. Quanto ci ha rimesso per questa cosa? Beh, 18 euro, non lo so. Ah, ogni volta una... No. Cioè, il barbiere più di una 18 volta, euro andato, diciamo la verità. Guardate che... Più no, di una no, volta. No. Come no? Comunque, c'è scritto qua, da qualche parte l'ho trovato. Senta, comunque il barbiere non è gratis per i parlamentari. Quanto costa? 18 euro. Ah, 18? Ah, beh, è normale, 18 è giusto. Dai. È un prezzo di mercato questo. Di mercato, questo è corretto. Forse sì. Qualcuno anche... qualche barbiere 18, di periferie fa anche meno. Ma allora, lei ha detto, con Galan siamo molto amici, siamo entrambi di Padova, sì, gli ho prestato il mio tesserino per entrare dal barbiere. È questo. Infatti, mica una volta, più di una volta. Entrare dal barbiere per tagliarsi i capelli. E... Ma come mai il signor Galan si fa allora, prestare il suo tesserino per andare dal barbiere? È una cosa pazzesca. No, ma perché non va dal barbiere fuori dalla camera? O a Padova, sono tanti barbieri. Sì, ma ottimizza il suo tempo, che bisogna non sprecarlo. Ho capito, però oddio, uno può pensare, no, si fa prestare il tesserino. No, ma perché ci fermiamo su queste banalità? Ma sono divertente, ma è divertente. È un grande pescatore di tonni, lo no, sai. Non più, non no, più. Una no. volta era un grande pescatore. Sì, ancora ama la pesca, però lui ama soprattutto adesso la caccia. Ma è anche un bell'uomo, secondo lei, oltre che un grande politico? Guardi, credo che Galan sia soprattutto un uomo intelligente, piacevolissimo, con lo senso dello humor. Non dobbiamo fare l'elogio di Galan. Che non c'è, tra l'altro, che non c'è, che senso però scusi, è anche carino fare l'elogio di un ministro di questo governo. L'unico che salviamo, giusto? Sì, penso... ride. No, scusi, l'unico ministro che salviamo. Però adesso viene fuori che Galan, questo tesserino per andarsi a fare la barba o anche i capelli. No, solo i capelli. Se lo faceva prestare anche da altri deputati, cioè, ha reiterato questa cosa. Credo che non lo so questo. Diciamo, non stiamo vabbè, comunque lei dice per ottimizzare il tempo, certo. Per ottimizzare il tempo uno viene alla camera, forse comunque 18 fare... euro, no, forse ho ragionato su questa cosa, 18 euro non è proprio è un prezzo di mercato, no. Se vai a farti i capelli, lo sai tu, 30, 35, 40. Dipende dove vai. Ma dipende dove vai, dipende cosa ti fai. Se ti fai il taglio solo, non è di mercato, è un prezzo anche questo. No. È una cosa di casta, diciamo la verità. Forse bisognerebbe aprire una commissione parlamentare d'inchiesta su questa roba del tesserino. Che commissione parlamentare d'inchiesta. Va bene, su che tipo di shampoo uno usa anche. Va bene, senta, grazie. Diciamo una parola definitiva su Verdini, ad esempio. Mio amico Verdini. Una parola definitiva su Verdini. Cioè, chi sono gli elementi, come dire... Impresentabili del PDL. Impresentabili del PDL. Ma io non posso dirlo. Ma come non può dirlo? Ma perché? Però ci dirlo? Sono degli impresentabili. Ma ci sono delle persone che forse avrebbero potuto evitare in questi anni di creare delle situazioni anche che, in cui hanno portato il Premier a trovarsi in queste condizioni. Io credo che sia anche colpa di questo gruppo di persone che gli sta attorno. Che... Il cerchio magico di Berlusconi. Ma penso ce l'ha anche Bossi il cerchio magico, sì. Anche sì. Berlusconi, anche Berlusconi c'è il cerchio magico. Adesso che si chiami cerchio magico, si chiama persone vicino a lui, non lo so. Bene, grazie onorevole Destro, grazie buon lavoro. 800 24 00 24, Vincenzo dalla provincia di Salerno. Chi è Vincenzo? Un ascoltatore. Buonasera. Dica. Mi stavo appassionando al dibattito sul taglio di capelli di Galan. Lo so. Quasi cambiare tema. Non si preoccupi, parli di quello che vuole. Volevo fare un intervento sulla questione Scilipoti, perché anche lo scorso venerdì alla Zanzara ho sentito diverse volte un accostamento fra i responsabili e i deputati di Futuro e Libertà che secondo me, a mio avviso, non è particolarmente opportuno, e le spiego il perché. Io per la verità non ne faccio una questione di dignità umana, perché non è a mio avviso una categoria della politica, cioè non credo che Scilipoti... Sì, però bada al sodo, di cosa ci vuole dire su Scilipoti? Io non ho capito nulla. Sì, glielo dico in maniera molto stringata. Quindi non dignità umana, non questione parlamentare, perché un parlamentare nel rispetto della legge fa come gli pare, ma una questione politica. E qual è la questione politica? La questione politica è che... Però Vincenzo, noi siamo allergici ai pipponi, non ci attacchi pure lei il pippone politico? No, non le sto attaccando il pippone politico, lo dico semplicemente che se Bocchino e gli altri hanno fatto una scelta di natura politica rispetto ai temi della giustizia e ai rapporti con la Lega, anche Scilipoti ha fatto anche lui una scelta politica, d'accordo, ma sono d'accordo con lei. E la rottura con l'Italia dei Valori, a suo avviso, su cosa si è consumata? Ma su tante cose, insomma. Sono rapporti personali che vengono meno e sono interessi politici e di altro lui tipo. Lui ha formato un movimento politico, attenzione, con quali principi politici di rottura con l'Italia dei Valori? Cosa ha fatto? E ride. Cosa ha fatto? Ha formato un movimento politico. No, dai. Io farei ascoltare il mitico scontro che c'è stato venerdì all'Ultima Parola tra Paragone e Straquadani. Bravo, Paragone bravo. Il conduttore dell'Ultima Parola. Bravo. E Giorgio Straquadani lo conoscete, il nostro mitico predellino, ex predellino, spesso ospite qui alla Zanzara. Bravo. Un scontro sulla Rai, la politica, i conduttori, gli schieramenti, eccetera. Via. Perché vede, io sono sincero, le scelte che ho fatto le però difendo. Lui è già scivolato. A differenza del nostro conduttore che si è già preparato al futuro, grazie. Allora parliamo però di un altro argomento. Sì, è vero, quello professionale. No, quello della Rai. Quello professionale. È già pronto. Sa perché? Sa perché, caro Straquadani? Perché la Rai non è vostra. Pardone. La Rai non è della politica. Mettetevelo in testa una volta per sempre. Come tutti gli altri, caro Straquadani. Come tutti gli altri, piantatela, la dovete piantare perché la RAI non è vostra, piantatela! Piantatela! Io sono arrivato col voto del centrodestra, però io sono arrivato. Quella era da risentire, errore mio. Io sono arrivato con il voto del centrodestra, ma non ho qui il prezzo. Non ho il prezzo, caro mio. Applausi. Sì, però devo dire la verità, per carità, ha fatto bene. Non è vostra la RAI, cari politici. E invece sì. Invece drammaticamente sì. Non è vostra. Cioè la RAI non dovrebbe essere vostra. Questa è la frase esatta, non dovrebbe essere. ma Stracquadanio, cioè anzi, Paragone sogna una situazione, no, che non c'è. No, è che questi politici quando vanno lì pensano di essere padroni a sì, casa loro. Questo è sbagliato. E invece loro hanno sbagliato questo atteggiamento, quindi dicono va, andiamo dal conduttore cosiddetto amico e quindi no, siamo no, so, non credo e quindi che mandano questa non so mentalità. Se lui, non so se lui mandano però messaggi. È vero. E invece qui bisogna tenere la schiena diritta questo, e la faccia non essere, pulita. Non essere questo banale. Solo la zanzara. Ma che stai dicendo? Schiena diritta, faccia pulita, via da Roma, via, via dalla Rai. Hanno fatto a pezzi il cavallo della Rai. Ma portatelo via, via. Ma via. Hanno scuoiato il cavallo. Adesso della ti faccio portare via, veramente ti faccio portare via da qualcuno. Via, schiena diritta, faccia pulita. Ma non c'entra nulla faccia quello che stai pulita dicendo. Io voglio ragionare sul fatto che a un certo punto Paragone dice la Rai non è vostra. E invece drammaticamente è così, la Rai è dei partiti. Dopodiché è evidente che lui fa bene il suo mestiere e fa bene a mandare a quel paese chi... chi vuole etichettarlo. Ancora Paragone Stracquadanio del centrodestra, ma non ho elezioni, si è già riposizionato. Sa perché? Perché avete sbagliato tutto e io ho il coraggio di dirvelo. Non mi comprate perché anche certo, ma io lo dico. Io sono solo un cronista, lei invece è un politico. Dice Stracquadanio se ne vada anche lei, se me ne devo andare io. E dov'è la relazione? Perché lui dice tu sei alla Rai in quota centrodestra come io sono in Parlamento in quota centrodestra. Ma se ti piace sto spettacolo, se ti piace così sto centrodestra, se ti piace hanno fatto carne di cavallo invece, non invece carne di porco. Il centro-sinistra in Rai non ha nulla, no? Sì, avrà fatto le sue sicuramente le sue allora, nomine dai. Le nomine dei partiti, certo, via, è finito via tutto. E per fare così che via bisogna fare? Tsunami, che bisogna spazzare fare? Via tutto, privatizzare la Rai, no, per non una essere rete, generico una rete, sì, una, una rete due su tre, via la politica dalla Rai, via, via, via, carne di cavallo via, hanno fatto, via. Hanno lottizzato anche le palle di quel cavallo che è lì, certo, Viale Mazzini, certo, pure quelle hanno lottizzato, vergognati, vergognati! Io, che c'entro no, io? Non so, però ci sei qua tu e quindi, e chi deve dirlo? Emanuele da vero, Milano, io proprio zero, cioè, Emanuele da Milano, buonasera. Pronto, buonasera. Mi hanno fatto prendere, scusate. No, volevo dire che Sarkozy, ridicolizzando Berlusconi, ha offeso tutti gli italiani, non solo la persona Silvio Berlusconi. Che noia, perché, che noia. Beh, sarà una noia, che però noia, sono intanto, poi magari lo manderemo a casa domani, ma fino a domani il presidente... Sai che ha ragione anche Emanuele, ha ragione anche Emanuele. Ma anche perché, francamente, noi siamo fin troppo abituati a farci riprendere dai giudizi all'estero e sembra quasi che tutto quello che si dice fuori dai confini italiani sia sempre degno di essere ascoltato, ma tutto sommato al di là delle gaffe, del fatto che possa essere ritenuto inadeguato e di tutte le critiche che gli si possano muovere, una cattiveria come quella, quel ghigno cattivo di Sarkozy di ieri, francamente è veramente... una cosa insopportabile. Ghigno cattivo. Ridono di noi, ma ridono di noi. No, non ridono di noi. Ma se le piace che ridano di noi. Ridono anche di lei. Ma di me non ridono perché io non l'ho votato, primo. No, perché a me fa ridere Berlusconi. No, però c'entra. Si sbaglia, perché ridono anche di lei. No, perché Berlusconi non è l'Italia. Votato, Berlusconi non è l'Italia. La Berlusconi la non è l'Italia. Tu non hai capito che quando Berlusconi va all'estero rappresenta anche te. Ma sì, ma questa idea, anche questa idea sciocca per cui Berlusconi rappresenta il certo, paese, che rappresenta anche te, è certo, il Presidente del Consiglio, ma te, tutto non si esaurisce nella politica, non si esaurisce, non è che un paese si rappresenta attraverso no, la sua c'entra politica, la sua classe dirigente, no, no. Anche perché io da questo spettacolo non mi faccio rappresentare, da questo teatrino non mi faccio rappresentare. Sei patetico, lo sai. È calato sei da mesi il sipario, siete rimasti in pochi, tu e questo... signore da casa ad applaudire un palcoscenico vuoto. Ecco, sono le smargiassate, le tirate vuoto demagogiche di Parenzo delle 19:40. Luci già benissimo spente, hai capito o no? Luci già spente, stanno punendo il teatro. Siamo, c'è uno che sta punendo siamo il alla teatro. Demagogia solo di Parenzo delle 19:40. Grazie, passiamo a Dino da Roma. Grazie dello spettacolo, David. No, aspetta. Dino da Roma. Considerazione ecco pacata e civile. Eccomi, io volevo dire questo, sono d'accordo sul fatto che la risata di Sarkozy sia inopportuna in quanto, diciamo, in un contesto in cui bisognerebbe, come dire, mantenere un contegno. Però diciamoci la verità, chiunque di noi italiani abbia avuto un rapporto di lavoro, di amicizia, un'opportunità di frequentare persone francesi, tedesche, spagnole, inglesi, austriache, svizzere, di paesi occidentali, diciamo civili, europei per esempio, sa che tutta l'Europa ci ride dietro. Allora, non è bello che Sarkozy abbia fatto questo sorrisino un po' scemo, diciamoci la verità, quando gli è stata fatta quella domanda, però non è neanche strano. È una cosa normale, perché non è assolutamente normale che l'Italia è rappresentata, è verissimo che Berlusconi rappresenta anche me, e me ne dolgo da anni, però mi rappresenta in quanto io sono un cittadino italiano, lui è il Presidente del Consiglio. Allora il problema è questo, è stato permesso a questo signore, per ragioni di interessi... È stato permesso cosa? È stato permesso, per esempio... Di fare il Presidente del Consiglio, ma di che sta parlando? No, di fare il Presidente del Consiglio è la democrazia, e va benissimo. È stato permesso però di ricevere quando... che cosa, scusi? È stato permesso, per esempio, di accogliere in pompa magna, con un atteggiamento Gheddafi, di amicizia, vabbè, un dittatore criminale. Non è che è stato permesso, l'ha deciso lui. Sì, esatto, in un paese in cui c'è più controllo e in cui si interpreta meglio il ruolo di rappresentante, alcune cose si evitano. È stato permesso di dire che la magistratura, che fa parte della democrazia italiana, perché non è solo il voto. Vabbè, ma è stato permesso? Che vuol dire è stato permesso? Scusi, di Dino? Che la magistratura è un cancro. Ma che significa è stato permesso? Dino, di che sta parlando? È stato permesso? Allora, che significa è stato permesso? L'ha detto. È stato permesso? Da chi è stato permesso? Avanti, lo spieghi. In tutti i paesi europei, compresa l'Italia prima dell'avvento di Berlusconi, c'era un sistema di controllo. Ma di controllo? Controllo di che? Ma in Italia ci sono mille controlli, Dino! Ma non è un comizio! Non è un comizio! No, glielo dico io, lei non mi deve interrompere se mi dà 30 secondi. Sì. Il sistema dei media, il sistema dei giornalisti, il sistema di una decenza minima, che se qualcuno fosse incappato in taluni scandali, in taluni guai, che purtroppo... Ma le pare che non ci sia un sistema di controllo? Si dimetteva, caro signore, caro Cruciani, lei lo sa molto meglio di me. Negli anni passati, quando uno faceva degli errori molto gravi, si dimetteva, non solo, ma si dimetteva anche se l'azione del suo governo fosse stata inefficace e inetta, come quella del governo. Lei ha un'idea della democrazia? La crisi fino a 6 mesi fa, Dino, lo ricordo, anni fa questo non veniva Dino, permesso. Dino, in Italia, in Italia, lo so che lei è stipendiato da Berlusconi, ma ci ridono. Stipendiato sarà lei, stipendiato sarà lei, ha capito? Non dica stupidaggini, Dino, non dica stupidaggini, ma non faccia il cretino, non mi insulti. Io non sto insultando, ho detto non faccia il cretino. Il cretino non è una parolaccia. Quello che ha detto è una stupidaggine. Quello che ha detto lei è una stupidaggine inaudita. Assolutamente. È una stupidaggine. Non è così, perché, mio caro signore. Ma cosa dice? I mezzi di comunicazione di massa sono anche un segnale di allarme quando qualcuno... Ma lei sta delirando, lei lo sa che sta delirando, sì. L'importante è che lei sappia che sta delirando, l'importante è che lei ne sia consapevole. Assolutamente. Lei sta delirando. Chiedo Parenzo cosa ne pensi di questo che lei chiama delirio. Lei sta delirando. In quale paese europeo, in quale paese del mondo... Lei sta delirando. C'è uno che dice che la magistratura del suo paese è un cancro. Quello non c'entra niente, lei sta delirando. E dicendo quelle cose del sotto... dice che è un eroe. Lei dicendo... Ma lei è malato, cioè lei ha un problema. Allora stia calmo e non attribuisca e soprattutto lei può avere tutte le idee che vuole, può pensare che Berlusconi è un mafioso, può pensare che Berlusconi è un criminale. Stia zitto un attimo, io non ho interrotto nessuno. Stia zitto un attimo, lei può pensare tutte le cose del mondo, che Berlusconi è un mafioso, che Berlusconi è un criminale. Oddio mio, ho detto può pensare, non che l'abbia pensato. Ho detto lei ha questa tecnica che io conosco molto bene. Che devo fare? Dimmi te. No, non mettiamo in bocca niente. Non mettiamo in bocca nulla, non si preoccupi. Ecco appunto, non mettiamo in bocca nulla. Comunque stia calmo un attimo. Però non è vero, lei può pensare tutte le cose che vuole di Berlusconi, possiamo discutere di quello che è, di come viene rappresentato, di cosa ha consentito l'Italia o gli elettori italiani. Lei può pensare. Allora, faccio un esempio. Insiste, mi fa concludere un ragionamento. Sì, prego, allora, prego, lei può pensare quello che vuole, dopodiché non può dire delle cose sul sottoscritto. Non le può dire, ha capito sì o no? E allora ha capito sì o no? Però siccome lei sopra, io mi sono un po' alterato. Ecco appunto, si è alterato. Poi siamo d'accordo. Il mio ragionamento, se lei mi dà gli ultimi 5 secondi... No, 5 secondi ormai basta. No, perché purtroppo questo sistema in cui Berlusconi ha foraggiato tante persone che avrebbero dovuto parlare di lui con obiettività, ha creato questa anomalia. Vabbè. Noi abbiamo una Ma non è che le ha foraggiati. Che portava delle prostitute. sostituti a Berlusconi e prende 12.000 euro al mese. Ma è stato scritto ovunque. Dei miei soldi. Ma è scritto ovunque. Senti, in Italia ci sono controlli e super controlli. Abbia pazienza, Dino. Non è stata votata da nessuno, la signora Minetti, ma in qualunque altro paese del mondo succedevano quelle cose. Sappiamo ma che sta dicendo la signora Minetti? Guardi, e quella persona si dimetteva, caro signore. Invece in Italia no, e quello ci ride in faccia. Fa bene. Fa male in un contesto internazionale, ma è normale. Tutti i suoi amici, caro Cruciani, che vivono all'estero, ridono di Berlusconi. Lei lo sa. Io come lei giro per l'Europa, io per lavoro e per conoscenze personali, controllo persone di tutta l'Europa e ci ridono in faccia. Va bene, d'accordo. Questo signore è un'anomalia. Ha finito? Ha finito o no? Ha finito o no? Ha finito di sfogarsi su Berlusconi come succede puntualmente da 15-20 anni? Ha finito o no questo sfogo? Ha finito, benissimo. No, grazie. Non è uno sfogo, le stesse cose che poteva dire 20 anni fa. La ringrazio. L'onorevole Mussolini, l'onorevole Alessandro Mussolini, buonasera. No, dico buonasera, ma voi state scherzando? No, beh, è tutto vero. Mica potete mandare in onda un collegamento come quello, dice il signore che gira per i centri di igiene mentale in giro per l'Europa. Voi l'avete agitato. Io sono tutta agitata stasera, mi ha allarmato, non sapevo più a chi dovevo sentire. Ha visto come combattevo? Ha visto come combattevo come un leone io, combattevo. Ma non era da fare, perché lui mano a mano si montava e monta gli altri. Voi mica potete fare così prima di cena. Se no la stressiamo, è vero, è vero. Mi stavo montando, mano che sentiva questo qua, mamma mia, logorroico, parafrontale, ce le ha tutte. Che vuole allora, fare così. Ditemi qualche cosa. Diciamo noi qualche cosa, ci dica lei, queste risate di ieri del signor Sarkozy in primis. Ma il signor Sarkozy, quello che sta con quella che suona la chitarrina. Come quella che suona la chitarra? Ma ha appena avuto un figlio, signora Mussolini. Ma andiamo, ma per favore, che suona la chitarra, che sussurra i 420. È stata una cosa gravissima. E l'odio che alla fine esce sempre fuori dai francesi. La Merkel ammiccava con quel suo faccino. È stata una. Io non credevo ai miei occhi. Io ho detto, ma non ci credo che stanno facendo questa scenetta. Queste sono gag di terz'ordine, neanche più nei nostri film si fa. Manco al bagaglino, dice lei. Ma neanche al bagaglino. Ma ridono di noi, onorevole Mussolini. Dov'è l'orgoglio italico che ci ha insegnato suo nonno? L'orgoglio italiano! Ma calma, è impazzito, però ti faccio parlare con quello di prima. Allora, io penso questo, che anche il fatto che Casini, la stessa opposizione, pur criticando eccetera eccetera, però abbia detto che questo non può essere, cioè un atteggiamento come questo non può essere ammesso, perché l'Italia è l'Italia, cioè non è che stiamo parlando di un altro paese. Ma è l'odio di noi che esce fuori, purtroppo questa è la pietra tombale di un'Europa che non c'è. Scusi, odio di Sarkozy nei confronti di Berlusconi, non dei francesi in genere. I due non si prendono. Odio, un'invidia che hanno i francesi contro di noi, ce l'hanno sempre avuti, i tedeschi a seguire a ruota, questa è la verità. Per non parlare degli inglesi, lo spirito europeo non c'è. Io quando ero al Parlamento Europeo, possiamo andare in guerra con tutti, No, ma ognuno aveva la sua bandierina nazionale, cioè non c'è uno spirito europeo, non c'è un'Unione Europea, ma di spirito, non di un'Unione Europea. Scusi, però mi viene in mente, mi viene un dubbio, non è che ridevano solo di Berlusconi e non dell'Italia, i due? Ma certo! Ma loro ridevano di tutto, loro hanno fatto un commento generale, come dire, pensi in questo momento, poi tra le altre cose un boomerang, perché se l'Italia poi va a capofitto, fa parte dell'Europa, questa è una crisi della vecchia Europa, perché l'Europa orientale va bene, siamo noi che non andiamo bene. Però mi scusi, allora lei hanno riso alla parola Berlusconi e fagli sentire l'onorevole Mussolini. Ma l'ho visto, l'ho visto, la parola ma gliela facciamo risentire, guardi. Tutti smaghi. Ma scusi un attimo. Dicono la parola Berlusconi. Ma non è che Sarkozy è diventato così, diciamo, anti-berlusconiano da quando si è messo con la signora Bruni, che è un po' di sinistra, no? Può darsi pure. Le donne hanno un'influenza eccezionale sugli uomini che, poverini, sono basici. Siete basici. Ah, noi siamo basici. Le donne, quando hanno una. Ma la Bruni non è che ci abbia tutta questa personalità, magari, ecco, non ha proprio una stima incredibile, questo senz'altro, quindi può aver influenzato. Però al di là di tutto, non puoi fare di fronte a una in conferenza stampa formale queste sceneggiate. Ma appena la signora Bruni ha è dato diventato anche bruttino, era una macchietta, un clown brutto, brutto. Ma di chi parla, di Berlusconi o di Sarkozy? No, di Sarkozy. Non c'era Berlusconi là. Però Sarkozy mica è brutti, è un bell'uomo, no? Ah, per carità, no, per carità. No, ma sembra molto, molto prestante. Lui era, stai zitto un attimo. Sembravano Gianni e Pinotto. Ah, già. Con la Merkel. Non so chi dei due, Gianni, chi l'altro e Pinotto. Beh, non è proprio un complimento nei confronti della signora Merkel questa cosa qua. Ma la signora Merkel, se possono, ci danno sempre addosso, anche la Germania, per carità, quando c'è da salvare gli altri, ma quando si parla dell'Italia esce fuori tutto l'odio. Però è anche vero che Berlusconi nei confronti della signora Merkel non si è espresso in maniera galante, diciamo. Anche lui ne ha dette. Non mi ricordo cosa ha detto. Non ti ricordi? Te lo ricordo io. Lo sanno tutti. Culone inchiavabile, diciamo su, culone in inchiavabile, dai. Sono usciti tutti al naturale, via. Hanno dato il meglio di loro stessi. Ma lo sa che una volta mi hanno raccontato che quando Berlusconi è andato con il Parlamento europeo, con una delegazione del Partito Popolare Europeo, a trovare la signora Merkel, la signora Merkel ha accolto Berlusconi con un giornale in cui davanti c'era la foto della D'Addario. Naturalmente non era casuale, no, pare. Il racconto è. Ma chi l'ha detto? No, ma guardi, le posso assicurare che una persona è molto. Ma lei perché diceva voglio essere come questa, ma non ce la faccio. No, questa era la cosa. No, la chi cosa è. No. No, non era per questo, era per fare un affronto a Berlusconi. E per fare. Ma quando mai? Ma basta con questi affronti. La Merkel si cambiasse la giacca, pure lei con Sarkozy, che mi sembrano veramente ridicoli. Ma come hanno la giacca? Ridicola. Sì, queste giacche assurde. Cioè, sì. Hanno orrende. Cioè, si veste malissimo, no? Malissimo. Sembra. Solo la giacca, non lo so, che non si cambia più niente. Dunque, allora, la Merkel e Sarkozy hanno dato una pessima immagine, ma non solo dell'Italia, sono andati contro l'Europa. Ma certo, l'Italia fa parte dell'Europa, che ci prendiamo solo i clandestini noi? L'Italia fa parte dell'Europa. Sì. Però mi scusi un attimo, diciamo qualcosa sulla signora Merkel. No, ma, non è stata signora ieri. È stata una vagliassa. Di antica memoria. La famosa vagliassa. La famosa vagliassa. Lei lo sa chi disse vagliassa a chi, no? Facciamo, stendiamo un velo pietoso, già mi è bastato il signore di prima. Dai, avanti, un'altra. La Merkel si è comportata come una vagliassa, si veste in maniera oscena. Pure lui, oscena, queste giacche verdi, queste giacche celesti. Una roba da paese giacconi. Comunista, una roba da paese proprio comunista. È come se il tempo non fosse passato da quando era... In Germania Est, no? Da prima della caduta del muro. Il muro per lei non è ancora caduto. E Sarkozy invece come se n'è uscito? Sarkozy ormai sembra un rocchettaro. Sarkozy qua perché lei è un rocchettaro. Sì, di quelli, sai, heavy metal. Perché non può fare... Ricordiamoci che Sarkozy... Me lo ricordo solo io o andò a fare una conferenza stampa completamente ubriaco? Ce lo siamo dimenticati? No, era quello giapponese. No, anche lui, ricordatevelo molto bene, riprendete tutte le... Lui era ubriaco, non voleva adesso più parlare. Sì. Da ubriaco. Ma ve lo ricordate? Certo, era giapponese. Allora, adesso, dopo la pubblicità... Anche Sarkozy, ricordatevelo, me lo ricordo io che l'ho visto. Adesso, dopo la pubblicità... Rideva e non parlava, ricordatevelo. Dopo la pubblicità riprendiamo da Sarkozy ubriaco con l'onorevole Mussolini. Quando mangia? A che ora mangia l'onorevole Mussolini? Mi state togliendo dal vestito. Un attimo, 5-10 minuti, poi la molliamo, su. Ce la molliamo, la lasciamo andare tranquillamente alla cena. La Zanzara. Eccoci qui, 800 24 00 24. Molti ascoltatori, onorevole Mussolini, mi mandano dei video dove appariva Sarkozy un po' brillo. Vedi? Durante una conferenza stampa, non mi ricordo. Si è messo a ridere, non sapeva cosa dire. Dunque, non è legittimato a ironizzare su Berlusconi e sul governo italiano. Ma nessuno è legittimato, questa è una cosa grave, non si può fare, non stanno dentro casa loro che possono fare quello che credi. Di fronte a una conferenza stampa ufficiale devono mantenere un atteggiamento corretto, hanno una responsabilità anche istituzionale. È stata una scena pietosa. Lorenzo, tu ma che dici? Voglio dire, non me lo posso dire adesso, parlando molto molto seriamente. L'Europa, l'asse franco-tedesco ci ha salvato. Ci hanno preso i debiti, ci hanno preso come una aspirapolvere, così i nostri debiti hanno aspirato tutto. ma scusami, l'Europa ci sta salvando in questo momento? Sì, perché ci sta salvando. L'Europa ci sta salvando, poi bisogna vedere. Però e ci ridono in faccia. Stanno comprando i nostri titoli di Stato. Ci ridono in faccia. Ci ridono in faccia perché siamo poco credibili. No, no, no, una cosa così non si può fare a livello diplomatico, umano, politico. No, no. L'Europa dice fate non si le ride riforme, in faccia, fate anche le cose. Se fosse stato Bersani con le maniche che si tira sulle maniche, non si ride in faccia. Ma non scusi, si ma può Berlusconi fare. Telefona alla Vittola, poi ci sono le oggettive. Ma poi va, bu-bu, che hanno detto Berlusconi ha detto che il problema è Bini Smaghi. Poi gli dice culone inchiamabile. Come? Poi gli dice culone inchiamabile, le oggettine. Perché quello è stato censurato, ringraziamo Dio, dal magistrato. Quindi quello non l'ha detto, lei lo può immaginare. E la nipote di Mubarak, e questi no, ridono. No, sapeste no. Quanto potrei ridere io di Sarkozy, della moglie, della chitarra e delle sue canzoni. Ma che scherziamo? Uno fa delle canzoni di Carla Bruni, dico. Uno fa. Come sono? Come sono? Vabbè, che c'è di male? Sono canzoni. Ma scherziamo, questo è un purgante. Ma stiate scherzando? Cioè, questo lo sai, no, prima di andare a letto è finito. Ma quando è mai? È molto che non ha neanche io... la voce per parlare. Ma io la abbraccerei, io ballerei con lei, onorevole Mussolini, con questa ma musica. Perché? Ma per carità, è una musica patetica. E che musica questa? Ma voi è romantica. La musica non la conoscete. Guardate che parlate con una alla cui figlia, io sono la figlia di Romano Mussolini, jazzista, certo, che suonava il pianoforte. Vogliamo parlare di questa chitarra moscia? Altro che Carlà. Insomma, ah, beh. Però scusi, ha chiamato la figlia. Ha chiamato la figlia con un nome italiano, Giulia? Ma che c'entra? Perché certo aveva il fucile puntato. Ah, dice ma perché che... lei poi sa, c'è sempre quella cosa, dice fammi tenere buono, non si sa mai, se questo mi caccia poi magari torni in Italia. È tipico italiano. Paraculismo, cioè... tenere il piede in due staffe, due passaporti o tre, semmai chissà, in America, capito? Paracula, perché lei pensa di sfondare in America, Paracula, vabbè. Però è bella, è molto bella, elegante. Bella. Ma quando mai sta diventando come la madre? Non mi dici, sta invecchiando male. Non è più lei, non ha più la faccia, non so che ha fatto il botox all'infinito, non lo so quello che ha fatto. È una cosa pazzesca. Vabbè, ho capito, ma voglio dire, non è che sia... Cioè, questo è un mio giudizio. È una bella donna. Sì, per carità, ci sono delle donne italiane bellissime. Lei è andata, quella canzone è molto bella. Trovare questo qua, eh? C'è una nuova coppia intanto. No, c'è la canzone di Simone Chistecchi. No, la canzone non me la fate sentire più. No, d'accordo, no, la togliamo. Io devo andare a cena e mi sentirei male. Allora, però c'è una nuova coppia in giro per l'Europa che fa sfracelli, è grande successo. La nuova coppia è Marine Le Pen, Daniela Santanchè. Diciamo la verità, una nuova coppia. È una grande coppia che gira per l'Italia. Due moderate. Gira per l'Italia. E fatele girare però. Però senza fermarsi mai. Come? girando via. Però scusi, e mano a mano si allontanano per forza centrifuga, via girano giù, se vai dicono dice dove stanno, adesso andate, stanno girando. Scusi un attimo, siamo Marine Le Pen, le piacerà, no? Ma guarda, ma a me non mi piace nessuno, a me mi piacciono gli italiani e pochi, ormai sempre meno. Scusi, però come mai si è formata questa coppia? Ma che ne so, ma questa coppia, speriamo che sia una coppia che di girovaghi, perché veramente è poco interessante. L'ha portata in Italia. Un'altra cosa volevo concludere, visto che siamo alla fine della discussione, una cosa che mi sta molto preoccupando. Cos'è? C'è stata questa cosa gravissima dell'incisione, l'hanno massacrato a Gheddafi, sì, e tutti quanti dicono bene, adesso abbiamo la democrazia. Ma noi che democrazia? Lo Stato Islamico? Noi siamo andati con i nostri soldati per fare quello che abbiamo fatto, alla fine ci ritroveremo una Libia con la Sharia e e le donne ancora una volta pagano sempre le conseguenze più gravi. Toglieranno il divorzio, cominciano a mettere la poligamia, rendetevi conto, ma perché non c'è pure per noi? Ma perché noi donne non possiamo avere tre mariti, uno che va a lavorare, uno che ci guarda i figli, uno che ci fa sapere? Mica vorrà la poligamia. Ma certo, una bella poligamia, un uomo, un marito non basta più, basta, questa è la verità. Vabbè, ho capito. Lei non vuole la poligamia, cioè vuole la poligamia al contrario in Italia. Ma perché diciamo, tutti gli uomini sempre devono avere il meglio? Sì, ma non è sbagliato. Una poligamia tornata, cioè no, tutti e tre insieme sarebbe una follia. Uno che ti fa carina, esci il cinema così, un altro ti porta i figli a scuola, un altro va a lavorare e porti i soldi a casa. Vabbè, se la sta scherzando, mica vuole proporre. Fantastico. Mica lei vuole proporre una cosa del genere in Italia, i plurimatrimoni, cioè la poligamia in Italia anche per le donne. Ma uno non ce la fa più, come fai tutta la vita? Tre va bene, il numero perfetto, ma perché sempre voi uomini? No, ma che c'entra? Ah, abbiamo fatto no, ma ha ragione tutta su questo. Tutte queste cose per introdurre la sharia, le donne di nuovo col velo gli metteranno. Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. E poi hanno introdotto la poligamia, tutti felici gli uomini, tutti filare. No, più basta. Che altro, più che altro avete nessuno. Stancato, ma più che altro non aveva Mussolini. Ma ragione, io su questo ho ragione, aveva Mussolini. Nessuno dice niente. Nessuno dice niente. Ha perfettamente ragione. Nessuno è dice un niente. Diritto della donna avere tre mariti, brava, è vero. Sì, uno, non ce la facciamo più, noi siamo ormai troppo per voi. Voi siete troppo, noi non ce la fate più a starci dietro. È vero, è vero. Bene. Però io dico una cosa, passando a una cosa più seria, è ma vero. Seria. No, vabbè, tanto la poligamia in Italia per fortuna non si può introdurre. No, so benissimo, sto dicendo del nuovo regime, quello è un regime, sarà, non è per niente democratico. Poveri noi che abbiamo la Libia a un passo, hanno massacrato Gheddafi, quindi questa è la conclusione. Pare che l'abbiano pure stuprato, pare che l'abbiano pure stuprato con un bastone, vabbè, una cosa del genere. Comunque, certo, per quello che ho visto, le poche immagini che abbiamo visto, alla fine sempre le donne pagano le conseguenze. E noi che facciamo? Che facciamo? Noi dovremmo dire, noi non dobbiamo fare gli affari per il petrolio con questa gente che di nuovo umilierà le donne, ma staremo zitti ancora una volta. Paolo da Milano, buonasera. Pronto? Dica, Paolo. Sì, buonasera. Io volevo, sarà monotono, fare ancora un appunto in merito al ghigno del duo Merkel Sarkozy. Dica, dica. Io trovo che, forse una domanda che faccio anche a lei, mi chiedo quale sia l'elisir di lunga vita di Silvio Berlusconi, che nonostante anni di critiche e difficoltà di ogni sorta, da giudiziaria a quantomeno politica, resiste ancora nel tempo, nonostante critiche vengano mosse anche sul piano internazionale. Io sorrido perché faccio un lavoro che mi porta anche ad andare spesso all'estero, e il sogghigno che hanno fatto i due premier franco-tedeschi lo vivo quasi quotidianamente da parte di clienti o comunque operatori del mercato in cui lavoro io, no? E io anche un invito che faccio a chi mi ha preceduto, che vive la cosa forse con spirito un po' calcistico, no? Inviterei a dimenticare le partite di calcio e forse fare un minimo di autocritica. Se Merkel e Sarkozy, poi ognuno ha i modi che vuole, sorridono, non lo fanno certo per provocare o per spernacchiare, suppongo, visto la posizione che occupano, ma perché c'è un'oggettiva difficoltà del paese italico. Sì, ma quindi, scusi, ma adesso al netto di tutto, no? Cioè degli errori di Berlusconi, eccetera, eccetera, è vero che la credibilità a livello internazionale è molto più bassa da qualche tempo a questa parte, ma c'è un fatto essenziale, almeno di forma, nelle relazioni tra gli stati, nelle relazioni tra i governi. C'è un governo in carica, legittimamente e democraticamente in carica, e in una conferenza stampa ufficiale, poi nei corridoi diplomatici si possono avere tutte le riserve del mondo e si possono fare tutte le considerazioni che vogliamo, e ce ne sono di riserve e parecchie, ce ne sono di riserve e parecchie, ma in una conferenza stampa ufficiale, poi perché da noi ci possiamo divertire, possiamo sghignazzare su questo, non c'è dubbio, possiamo fare tutto quello che vogliamo, perché qui è l'informazione, qui è il dibattito, questa è l'agorà. Però in una situazione di ufficialità io credo che quei ghigni, quelle risatine non vadano fatte. Poi siccome è successo, ne parliamo, ci divertiamo, ci giochiamo sopra, eccetera, eccetera. Però insomma, sì, non è che bisogna trasferire l'errore. Secondo me c'è stato un errore, quelle risate, anche se poi adesso leggo delle agenzie che naturalmente le agenzie e le cancellerie adesso sono lì a smussare, a parare il colpo, a parare il colpo, eccetera, eccetera, dicono c'è stato un equivoco, eccetera. Dopodiché, secondo me, si è trattato comunque di un errore. Comunque, o comunque di qualcosa che non va fatto. Invece lei pensa direttamente al fatto che siamo inadeguati noi, non al fatto che sia stato un errore la risata. Sì, forse entrambe le cose. Poteva essere manifestata in modo diverso. Sta risata che è uscita, penso, spontanea a Sarkozy, ha cercato la complicità della Merkel. Guardi che molti paesi hanno anche loro hanno delle cose da farsi rimproverare. Ma guarda, forse non drammatizzerei più di tanto. Che dici, Parenzo? Che dici? Ma no, mugugno come una pentola di fagioli, perché voglio dire, ma scusami, la domanda era precisa, l'hai fatto giustamente risentire poco fa, gli dice ma cosa pensate di me? È affidabile, e quelli ridono, ma parlavano di Berlusconi, è affidabile, che no, è affidabile, vi fidate delle rassicurazioni. È credibile che faccia le riforme strutturali che avete chiesto, che va... e quelli ridono, amico mio, ridono, ma se ti piace così va bene, se vi piace a voi va bene, e qui a giustificare, allora Sarkozy ha riso, attacco all'Italia, ma che dite, ma perché attacco all'Italia per una risata? Per una risata, ridono di vabbè, noi. Sei al delirio. Paolo da Milano. Antonio da Verona. Antonio da Verona, Romeo da Verona, Giulietta da Catania. Antonio, dica. Sì, salve, Antonio, buonasera anche a Parenzo. Io volevo intervenire, volevo fare un piccolo inciso sulla Mussolini, non sa più dove attaccarsi quella lì, perché dopo la figura di merda che ci hanno fatto fare, abbiamo fatto in Europa, grazie a loro e al loro governo di nani. Scusi? È il nostro governo di nani, sia in governo di nani, questo è interessante, sia fisico e sia fisico, perché siamo bassi sotto tutti i punti di vista, questo è di cattivo gusto. Comunque quello che volevo dire è un'altra questo cosa, è di cattivo gusto, è arrivato Antonio da Verona, il parente povero di Beppe Grillo, benissimo. Questo è di cattivo gusto, povero di Beppe Grillo. Comunque io volevo dire un'altra cosa, io sono un elettore di centrosinistra, anche se non posso dire di essere d'accordo con Bersani perché non ha mai espresso un'idea. Vabbè, e dunque? Però oggi finalmente ha detto una cosa giusta, che se il governo negli ultimi 3 anni, perché dal 2008 al 2011 ormai sono passati 3 anni, non ha fatto una sola proposta, non ha fatto niente. Questo è sbagliato dirlo perché non è così, è evidente che non è così. Oltre ai favori personali che si ma non è così, Antonio, se vogliamo ridurre tutto quanto a burlette, riduciamo tutto a burlette e va bene, dai. Sì, su. Ma ormai siamo al capolinea, quindi ormai qualsiasi cosa va bene, secondo me. Il discorso è che domani nessuno ci crede che domani, dopodomani, anche perché l'Europa ci ha dato 72 ore. Nessuno potrà crederci in Europa che domani faremo le liberalizzazioni. Sì, ma il punto, Antonio, è questo qua, sì. È un altro. L'Europa ci chiede, l'Europa, questa entità così generica, diciamo, ci chiedono di alzare l'età pensionabile. Io le vorrei fare leggere le reazioni a questa cosa da parte dell'opposizione. Perché è vero che all'interno della maggioranza c'è uno scontro in corso molto forte tra la Lega, che non vuole l'aumento dell'età pensionabile, e Berlusconi, che lo vorrebbe in teoria, perché poi anche all'interno del PDL ci sono diverse posizioni. Ma comunque, insomma, diciamo che il PDL è a favore dell'aumento dell'età pensionabile, con qualche riserva, dipende come, eccetera, eccetera. Ma dall'altra parte non è nessuno d'accordo, tranne una piccola minoranza del Partito Democratico. Bravo, nessuno, bravo, Gianni, bravo. Nessuno, nemmeno bravo. Uno ce n'è, nemmeno Bravissimo. Uno ne trova, tranne. Sempre a parole, il terzo polo, forse anche lì con dei distinguo, facciamo gradualmente. L'unica cosa seria è prendere una decisione oggi, non ieri, oggi, non domani, oggi di aumentare l'età pensionabile. Ci sarà qualcuno scontento? Ci sarà qualcuno che, come si dice in gergo, se la prende in quel posto? Chi se ne frega? Cioè, bisogna prendere delle decisioni drastiche, non chiacchiere, non progressivamente, con moderazione, facendo molto un bene. Passaggio graduale. No, Gianni da Verona, buonasera. Buonasera. Dunque, io credo che dovremmo essere grati alla Merkel e a Sarkozy di aver sorriso praticamente, perché sorridendo hanno dimostrato il loro pensiero, cioè finché uno non si dimostra non si sa mai come la pensa praticamente. Diciamo, ridendo hanno dimostrato anche poca diplomazia, capisci? Cioè si sono scoperti le carte praticamente, ridono e in questa maniera si dimostrano di non essere, come si può dire, diplomatici, di si sono magari scoperte le carte. Scoperte le carte, sì, scoperte le carte. Ma di cosa parliamo? Del quarto segreto di Fatima? Di cosa parliamo? Ma no, del quarto segreto di scoperte Fatima. Scoperte le carte, cioè lei scopre ora che l'Europa ci considera degli zimbelli, che ride di noi, ora, dalla risata, no, era evidente da prima, no? Ma amico vede, mio, ma... su! No, no. Scusa Parenzo, allora, ma perché tu pensi, cioè, che invece con un governo di centrosinistra, dai, non ci considerano degli zimbelli? Dai, no, via, via il prosciutto dagli occhi, via il prosciutto, su, via il culatello. Non ho capito, Parenzo, via il tu pensi che con un altro governo ci considererebbero ci considererebbe in maniera diversa? Tu Cruciani, togliti il salmone, invece togliti il salmone dagli occhi. No, via, rispondi a questa domanda invece di rispondere per slogan. Ma allora, tu pensi che con un altro Amato, sì, Ciampi, sì, sì, ci considerano in modo diverso, ci considerano in modo diverso, ci consideravano in modo diverso, credibili, sì, la parola credibili. Ma non smetti, perché siamo entrati in Europa, sì. Però guarda, io non so più che ti piace così, ma va bene così, vi piace così, ma tenetevi questo spettacolo, va bene, Gianni, concluda. È troppo terribile. Allora, voglio dire che finora, magari l'Europa ci prendeva per zimbelli praticamente, però non ce lo diceva, con ste risate ci ha detto siete degli zimbelli, mi capisce cosa allora voglio dire? Perciò dobbiamo ringraziare, cioè per capire cosa pensano gli altri. È un ragionamento un po' ardito, Gianni, è un po' ardito. Grazie, grazie a Gianni. Un attimo solo, 800 24 00 24. Ma ti ricordi cosa è successo la settimana scorsa a Roma, Parenzo? La settimana scorsa a Roma c'è stato il congresso di allagamento, no, il congresso di il congresso lo fanno i partiti. Il congresso di cosa c'è stato? Del Movimento di Responsabilità Nazionale. No, dei medici, il congresso dei medici c'era stato. No, del congresso del Movimento di Responsabilità Nazionale di Scilipoti. Ah, c'è stato. Non ho capito. Ripeti un attimo. Fai delle battute pazzesche. Chi è il tuo autore? No, il congresso del Movimento di Responsabilità Nazionale. Vabbè, cosa c'è da ridere? Scusa. Ma dai, hai detto due cose che mi fanno ridere: congresso e poi hai detto Movimento di Responsabilità Nazionale. Te lo ricordi? L'inno, eccetera. Comunque, Gaetano Saia, buonasera. No. Buonasera, Cruciani. Come va? Veramente c'è da ridere perché. Con mio dare ragione a Parenzo, purtroppo. Ah, dà ragione a Parenzo? In che senso? Quando ha ragione, non posso dargli dopo. Oh, vedi Parenzo, sai che dovresti preoccuparti. Ha ragione questa volta. Cioè, non capito perché, allora, ricapitoliamo la situazione. Il signor Sai. Aspetta, fermo. Un attimo, ti sta dando... Allora, Daria, oddio mio, ora non iniziare subito così. Parenzo, scusami. Allora, io sto dicendo una cosa. Saia, insieme alla moglie, fanno parte di un movimento che si chiama Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, erede del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, perché hanno ereditato il simbolo. Allora, ci doveva essere un'alleanza tra il, come sai, tra il MSI Destra Nazionale e il Movimento di Responsabilità Nazionale, con un incontro addirittura che doveva essere suggellato proprio in occasione di questo congresso insieme a Berlusconi, eccetera. Ferma di non parlare. Allora, cosa è successo? Che in realtà la signora Cannizzaro, la moglie del signor Saia, è andata... E ride. È andata lì al congresso, ma è stata un po' emarginata, sai, è vero o no? Ma guardi, in realtà il presidente Berlusconi l'ha salutata amabilmente, si sono salutati. Ma non è vero, pare che non sia vero. No, Berlusconi ha salutato la signora Cannizzaro, ci sono i vostri colleghi giornalisti, quindi non diciamo bugie, non diciamo. Il problema è un altro, che veramente Scilipoti è un uomo squallido. È veramente una persona che ha nel DNA il tradimento e lo dimostra. E chi la è? Vicenda. Ma perché guardi, poi in effetti la vicenda di Di Pietro, lui perché lasciò Di Pietro? Non perché aveva avuto quel senso di Stato, perché era arrivata la lettera dell'ingegnere Recupero che diceva che Scilipoti era indagato e ora è stato rinviato a giudizio per truffa, frode processuale e falso. E beh, che c'entra? Perché doveva passare con Berlusconi? Scusi. Perché Di Pietro lo stava per espellere dal partito, sarebbe finito nel gruppo misto, mai più nessuno l'avrebbe ricandidato, quindi sarebbe... Ma scusi, lei è passato da un'ipotesi... Io sono passato da cosa? Se mi accorgo... ricordo che uno è un lestofante, un mascalzone, un delinquente. Addirittura, sai, amico dell'Andrangheta. Ma no, sai, no. Ma con me, con persone collegate all'Andrangheta. No, sai, si assume tutte le responsabilità di quello che dice. Si assume tutte le responsabilità. Io ho i testimoni, ero a cena a Reggio Calabria, in un tavolo presente l'Andrangheta. Ma che presente l'Andrangheta? Posso dirti no? Parenzo, dimmi la tua, dimmi no, la tua. No, io credo che anche questa telefonata lo ha dimostrato. La situazione è molto grave. Ho parlato con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sì, OMS. Sì. L'OMS, certo. Si chiama, è un atteggiamento tipico psicotico. Si definisce psicotico una persona in preda a deliri e allucinazioni. Aspetta, sai. Parliamo di roba seria, se no chiudo, Cruciani. Aspetti un attimo. Queste buffonate di Parenzo vanno rotti i coglioni. Aspetti. Qui stiamo parlando di cose serie. Sì. Parenzo la deve smettere. Sai, la scusi, se no, la telefonata, Cruciani, la salute finisce qui. No, aspetti un attimo, Parenzo, che vuoi dire? No, io voglio capire il ragionamento. No, voglio capire questo. No, veramente, siccome l'atteggiamento psicotico è quello, appunto, si definisce scientificamente così: una persona in preda a deliri e allucinazioni. E qui ci siamo in pieno. Cioè, la diagnosi. Ma di chi stai parlando? Parlando di questo signor Maia, della Pemaia, del fascismo, la Pemaia del fascismo. La saluto, guardi, non ho tempo per le buffonate. Perché lei voleva... La moglie che si presenta con la divisa color cachi. Perché non guardi la Lega che si presenta con la divisa color verde vomito color... di dopo? Perché vi brucia il culo ogni volta con la nostra camicia? Piano, però oggettivamente... Siamo sempre le stesse storie. Signor Saia, però oggettivamente, vedere le immagini di sua moglie insieme ad altri due signori che si presentano... erano più di due. Vabbè, quelli che sono, peggio ancora, che si presentano al congresso di Scilipoti vestiti con una divisa militare color cachi. Non è una divisa militare, Cruciani, ogni volta ci ripetiamo. Vabbè, quello era che è. La camicia ocra, come la Lega a quella verde. Ma non è così, erano... Ma erano... ogni volta diciamo le stesse cose, Cruciani. Ho capito, ma è una situazione assurda. È una... Perché? Ma scusi, quando Bossi va alla Camera dei Deputati in camicia verde, lì non è assurdo, non capisco perché la nostra camicia ocra è assurda. Ma no, è una divisa. È una divisa carnevalesca, signor Saia, su. Ma perché carnevalesca? Me lo spieghi lei. Perché è un po' carnevalesca, basta guardare internet e tutti... Scusi, Saia, basta guardare internet e tutti si rendono conto che è una cosa carnevalesca, abbia pazienza. Ma perché la vogliono tutti questa camicia? Ma chi la vuole? Chi la vuole? Anche Scilipoti ne ha assunto una in nero alla Camera dei Deputati, però gliel'ha fatta levare lì la camicia alla ragazza, in effetti. No, ma vedi, questo conferma perfettamente. In che senso l'ha fatta levare? Scusi, non ho capito. Ma guardi, l'abbiamo pubblicato, il nome è Elena Lullo, una delle nostre camicie ocra, è assunta alla Camera dei Deputati, mentre in Italia ci sono milioni di ragazzi disoccupati, però lì in effetti Scilipoti la camicia gliel'ha fatta levare. In che senso? L'ha invitata a cena e si è levata la camicia. No, vabbè, conviene, Cruciani dice ma no. Ma ho capito, ma lei sta insultando, ma lei sta insultando una persona, un deputato della Repubblica, sta dicendo delle cose inarrabili, su. Ma è un mascalzone solo perché non ha fatto l'accordo con lei, Saia. No, perché ci voleva ciullare il partito. Noi l'accordo lo faremo lo stesso con Berlusconi. Ma quale accordo con Berlusconi, Saia? Scusi, Cruciani, lei è una persona intelligente, ma io come faccio un accordo con... E ha ucciso Cruciani di nuovo. Scusi, Cruciani, come faccio un accordo con Scilipoti? Io l'accordo lo... Ma l'ha detto lei che lo voleva fare l'accordo con Scilipoti? Ma perché stavamo al gioco di Scilipoti, volevamo vedere dove arrivava. Noi l'accordo lo possiamo mai fare con un partitino inesistente che arriva con le limousine, le zoccole, Parenzo, di la tua, Parenzo, di la tua, Parenzo. È evidente, guarda. Parenzo, un attimo, Saia, fermo. Con Berlusconi. Va bene, sì, con Berlusconi, vabbè, Saia. Guarda, questo, anche questo spezzone è utilissimo. Saia, un attimo. Questo spezzone utilissimo di trasmissione che stai facendo in diretta conferma la tesi che la psicosi consiste nella mancata... La psicosi ce l'hai tu, che ti sei... Fermo, Parenzo, allora? Leggo la definizione perché è calzante per chi ci ascolta. La psicosi consiste nella mancata realizzazione della propria identità, porta rabbia, e ci siamo, odio e isolamento. I sintomi della schizofrenia, quelli prevalenti, sono i deliri, e ci siamo, le allucinazioni, e ci siamo, eloquio e comportamento disorganizzato e catatonico. Cioè il signore, in questa ora d'aria che ha rispetto alla sua depressione, sì, in un istituto psichiatrico, non giudiziario, ma psichiatrico, ha bisogno bisogno immediato di alcune, anzi chiamo, gli chiedo agli infermieri se gli posso fare subito una piccola puntura e sostituire la camicia bruna con una camicia bianca che di si forza, lega di forza, davanti, davanti. Allora comunque mi mandano dei messaggi via SMS, caro Saia, Berlusconi non ha nulla a che fare con il suo movimento. Ma ti credo, ma dai. Saia, Berlusconi smentisce, persone vicine a Berlusconi smentiscono di avere a che fare con lei. Allora, e allora sa che le dico, Cruciani, che bello, che Berlusconi se ne deve andare anche lui a Va bene, d'accordo, via. Parenzo, ci sei ancora, sì? Come sempre, come potrei abbandonarti nel momento in cui c'è un caso psichiatrico, caso chiaramente psichiatrico? Guarda che è andato via il signor Zai, Te credo, l'hanno riportato in corsia, evidente. Allora, la signora Cannizzaro! Come parla poi? Dai, no, a me mi spiace che sui malati non si può scherzare, effettivamente. Renzi contro Cofferati, scontro in onda. Questa ieri è buona, buona trasmissione anche in onda. Certo, ci lavori dunque. No, è una buona trasmissione. Sei vergognoso, sei. Renzi contro la generazione Cofferati, Cofferati poi risponde, via. Io credo che non Cofferati in quanto come persona, ma che la generazione che Cofferati rappresenta sia una generazione che noi per molti motivi dobbiamo ringraziare. È una generazione che ci ha dato prosperità, ricchezza, parlo da under 40, però è anche una generazione che ci lascia il debito pubblico più alto d'Europa, ci lascia una situazione di paese dove i grandi nodi non sono stati risolti. Senti la risposta del vecchio Cofferati, battagliero, lotta come un leone anche lui, Matteo Renzi è il sindaco di Firenze, è stato prima presidente della provincia, ha una lunghissima storia politica e amministrativa, ha cominciato giovanissimo, ha fatto sempre soltanto il politico, non si è occupato mai di null'altro, non ha un'attività professionale alle spalle, ma avendo io grande rispetto per chi ha fatto politica, ho rispetto anche per Renzi. Poi aggiungo che le cose che gli ho sentito dire sulle generazioni mi sembrano, posso dire senza offesa, deliranti. Ci sono persone della mia generazione, le faccio qualche nome: Carlo Azeglio Ciampi, Giuliano Amato. Negli anni 90, cioè esattamente 20 anni fa, queste persone hanno salvato l'Italia dal tracollo. Beh, bisognerebbe aggiungere però, Cofferati, che le stesse persone, non Ciampi naturalmente, che aveva altri incarichi, partecipavano a governi dove prima si faceva comunque, che hanno partecipato all'aumento del debito pubblico in Italia. Certo. Renzi, risposta. Delirante, ha detto Renzi. Beh, Sergio Cofferati ha detto quella che giuridicamente parlando si chiama balla, una balla spaziale. Io ho iniziato a lavorare a 16 anni perché la piccola azienda nella quale che mio padre aveva fondato, dimettendosi dalla scuola, aveva delle difficoltà economiche. Quindi per pagarmi l'università ho lavorato per 4 anni e mezzo, mi sono laureato in 4 anni e mezzo, ho fatto il dirigente d'azienda. Ancora scontro, sono nello stesso partito, E chiedo, siccome voglio bene alla mia città, non è che ho inventato una città a caso per fare il sindaco, ho scelto la città a cui voglio bene, nella quale sono nato e cresciuto, perché non penso di poter essere paracadutato da una parte all'altra. Questo è un riferimento, no, figuriamoci, figuriamoci. Io ho grande stima, ha lavorato una vita a Roma, ha fatto il sindaco a Bologna, adesso è parlamentare a Genova, per me sarebbe un ottimo presidente della regione Abruzzo, quindi se vogliamo buttarla sulle battute la finiamo lì. Ma questa è buona però, sarebbe un ottimo presidente della regione Abruzzo. Vabbè, era uno scontro andato in scena ieri in onda. Ascoltatori 800 24 00 24, dove andiamo? Io la devo salutare, direttore. No, aspetta, Pasquale da Napoli. Pasquale. Va bene, spostiamo la programmazione della Spostiamo. Pasquale, no, da Napoli. Ragione. Pasquale? Pronto? Buonasera. Dica. Buonasera, Parenzo, pronto? Sì, pronto, l'ho già detto. Anche a Cruciani, buonasera. Ari, dai, prego. Allora, io sono d'accordo con su certe cose di Parenzo, anche sono d'accordo su di lei che bisognerebbe pigliare decisioni drastiche. Sì, però vada al sodo, Pasquale. Non sento nulla. Andiamo a Milano, Michele. Buonasera. Dica. Niente, io volevo sostanzialmente ritornare sul discorso Sarkozy-Merkel. Personalmente non mi sembra che sia stata una cosa così terribile il fatto che Germania e Francia ci abbiano deriso, o perlomeno una presunta derisione, anche perché allora? Ricordo che l'Italia è sempre stata trattata, diciamo, come una nazione di serie B. L'unica cosa che non capisco è, sinceramente, Sarkozy come si permette di fare un ghigno di giudizio sui comportamenti evidentemente del presidente Berlusconi, quando sinceramente se guardasse, come posso dire, in casa sua con sua moglie o comunque anche con esponenti... Che succede in casa sua con sua moglie, scusi? Beh, non mi sembra che comunque Carla Bruni abbia un passato di persona, come posso dire, ma cosa c'entra? Scusi, adesso non è che si stava parlando, non è che si stava parlando, a parte che è moralmente integerrima, non mi sembra che in questione ci sia, cioè in discussione ci sia il comportamento di Carla Bruni, scusi, No, sicuramente, però né il ghigno di Sarkozy oppure la risata di Sarkozy si riferiva alla vita privata di Berlusconi. Beh, sicuramente comunque un giudizio dell'Italia evidentemente deriva anche da quello che viene proposto. Parenzo, di qualcosa tu, e poi mi saluti. Parenzo, di qualcosa così mi saluti, su. Il dottor Parenzo è chiamato in trasmissione. È stato chiamato in trasmissione? Mi dispiace, si sta per partire la diretta. Bene, grazie. Lo saluti, ringrazio. Me lo saluti, me lo saluti. Grazie, lei chi è? Il segretario personale, chi è? Esatto, l'assistente di produzione del dottor. L'assistente di produzione, benissimo. Grazie. Allora, con chi eravamo? Michele, che sta dicendo? Carla Bruni non c'entra niente, però lei non mette in campo il passato di Carla Bruni, che poi che tipo di passato è, scusi? Perché sarebbe secondo lei moralmente, o non so come ha detto, moralmente? Integerrimo, che ha fatto di così strano Carla Bruni? Mi sembra che comunque il passato di modella di Carla Bruni... E perché fa? Uno può, una modella è un... No, però sicuramente sono uscite delle storie su di lei, sulla sua vita privata. E che storie sono, scusi? Ma no, che era stata l'amante di Mick Jagger. E beh, allora una volta che è stata con Mick Jagger, qual è il problema? No, per me non c'è nessun problema, l'unica cosa che dico che non si può decidere... No, ma non ho capito perché il passato di Carla Bruni dovrebbe essere non integerrimo, dovrebbe essere riprovevole, scusi, dove lo trova? No, che cosa ci prova di riprovevole nel passato di Carla Bruni? Non dico che sia riprovevole, dico solo che secondo me Sarkozy non si può permettere di dire Berlusconi sinceramente non è affidabile, perché comunque i suoi comportamenti personali... come posso dire, denotano un comportamento un poco inattendibile con tutto quello che è stato detto contro Berlusconi e che sono uscite dalle sue intercettazioni. Guardi, secondo me lei sta proprio sbagliando bersaglio. La ringrazio, intanto è terminato il Consiglio dei Ministri e da quello che sembra sarebbe stato raggiunto un accordo tra Bossi e Berlusconi sulla questione delle pensioni. Dunque non ci sarebbe lo strappo della Lega, almeno questo riportano alcuni siti. Non ci sarebbe lo strappo della Lega, ma un accordo sulla questione delle pensioni, soprattutto perché la Lega, almeno questo nell'interpretazione di alcuni siti che si occupano di politica, la Lega non può permettersi in questo momento di mollare il Presidente del Consiglio. 800 24 00 24. Daniela da Reggio Emilia, buonasera. Buonasera. Dica. Io telefonavo in merito al discorso Sarkozy-Merkel, perché io invece sono molto offesa come italiana. Sì. E oltretutto non accetto che una persona nella persona di Sarkozy della Francia, che ha dato asilo politico per tanti anni a dei terroristi che hanno ferito enormemente l'Italia, quando abbiamo fatto la voce un po' grossa hanno fatto finta di darci le spalle, anche per colpa nostra, per poi lasciarlo scappare e poi deriderci anche dietro. Io da parte mia non comprerò più prodotti né francesi né tedeschi, nemmeno un Samenberg, e spero che qualcun altro mi segua il mio esempio, così vediamo se poi permetteranno ancora di deriderci dietro. Il boicottaggio dei prodotti tedeschi e francesi, questa mi sembra francamente una boiata. Daniela, la ringrazio e l'abbraccio forte. Marco da Napoli, buonasera. Sì, buonasera, mi sente? Adesso sì. Ah, perfetto. No, io volevo fare un piccolo intervento in riferimento all'argomento principale della serata, quindi questo della Merkel e di Sarkozy. Volevo semplicemente dire che ritengo il comportamento del presidente Sarkozy e della Merkel, che in effetti lo ha avallato, assolutamente grave e inopportuno sul piano politico, paragonandolo questo comportamento a quello del nostro presidente del Consiglio, non si può fare a meno di osservare che Berlusconi non ha mai, e dico mai, offeso nessun rappresentante di nessun paese, né comunitario né extracomunitario, non ha mai ironizzato e criticato nessuno Stato, attraverso anche i rappresentanti quindi con i quali si trovava nei vari consessi europei e internazionali, e poi in questo paese ormai è diventato uno sport diffuso nazionale, quello di criticarlo qualunque cosa faccia o anche non faccia, dica o anche non dica. Io non sono berlusconiano, però sinceramente ritengo come cittadino che in questo paese si stia assolutamente esagerando nel criticare il nostro Presidente del Consiglio. E a questo vorrei aggiungere che... Sì, però sono due cose diverse, la critica al Presidente del Consiglio e le risate di io Merkel, le collego, così, eh? Se mi consente, io le collego per un motivo, perché si individua la responsabilità di questo comportamento del Presidente Sarkozy, lo si individua nella nostra perdita di credibilità causata da Berlusconi. Quindi allora? La gente dà la colpa a Berlusconi se noi abbiamo perso la credibilità, ma non credo che sia questa la causa, non credo che sia questa, perché ritengo che il nostro paese abbia perso credibilità soprattutto a causa del nostro modo di attaccare e di criticare le istituzioni, i rappresentanti delle istituzioni. Se Berlusconi è stato messo in seria e ripetuta difficoltà sullo scenario estero, credo che dobbiamo... Non è certamente colpa, secondo me non è certamente colpa delle... La colpa è, per la maggior parte, ritengo io, e sottolineo che io non sono un berlusconiano, ma ritengo che la colpa sia la nostra, perché in questo paese non si fa altro, cioè io non noto altro che un'assoluta e totale mancanza di rispetto verso tutto e verso tutti. Va bene, grazie. Raffaele da Napoli, buonasera. Raffaele, abbassi la radio, quello che è. Pronto? Dica. Sono in linea? Sì, Raffaele. Allora, io volevo replicare all'onorevole Mussolini per quanto diceva sulla Merkel, che si deve cambiare la giacca. Io penso che i nostri politici dovrebbero curare meno l'aspetto fisico e l'abbigliamento e interessarsi un pochettino di più a quello che è praticamente le problematiche delle persone che non riescono ad arrivare a fine mese. Uno. Due. Cioè a lei non gliene frega niente di come si veste la Merkel, questa ma è la sostanza. Ma che me ne frega a me se la Merkel si mette un vestito alla moda oppure no, quando poi porta il PIL della sua nazione a, credo sia più 3, più 4, non lo so. Ecco, credo che la Mussolini, se si truccasse un po' di meno, si vestisse un po' meno bene, però legiferassero di più, questo sarebbe una cosa a vantaggio di tutta la comunità e di tutta l'Italia. Poi ho capito, Raffaele, dire... molto chiaro. Michele da Roma, buonasera. Buonasera, sono in linea? Eh sì, fino a prova contraria sì. Salve. No, perché grazie, niente, io volevo sottolineare ciò che ha detto Sarkozy dopo il ghigno, e che sostanzialmente aveva fiducia nelle istituzioni italiane, politiche, sì, economiche e finanziarie. Ciò significa che non si ha fiducia più in Berlusconi, che è diventato una barzelletta di se stesso, a furia di raccontare barzellette, veramente, e a furia di fare sempre annunci. Allora pare che è diventato credibile. Ho capito, Michele. Quindi, pare che italiano non mi ritengo offeso sostanzialmente. Va bene. Ma non si ritiene offeso, okay, perché secondo lei Sarkozy e la Merkel si riferivano all'Italia, si riferivano a Berlusconi e non all'Italia nel suo complesso. Va bene, Matteo da Terni, intanto il Consiglio dei Ministri è terminato e pare che non sia stata presa alcuna decisione, ci dovrebbe essere una cena tra Berlusconi e Bossi e forse un nuovo Consiglio dei Ministri domani. Matteo da Terni. Sì, buonasera, ciao a tutti. Allora? Guarda, io stavo rincasando fra me e me, sarò velocissimo. Mi domandavo qual è il danno, mi riferisco alle risatine di Sarkozy e Merkel, mi domandavo qual è il danno e verso chi questo danno eventualmente è quantificabile. Io non vedo un danno nei confronti del nostro paese, non vedo un danno dal punto di vista della credibilità, stiamo ragionando chiaramente nel campo delle ipotesi. Per me due rappresentanti così importanti, di due governi così grandi, di due nazioni così importanti, non fanno la risatina a caso, non è un errore, non è una gaffa, è una cosa voluta, ma secondo me il dispetto lo hanno voluto fare, e vorrei condividere con voi questa impostazione, a Berlusconi, perché ragazzi, risatine da parte della Merkel e da parte di Sarkozy, questi sono come minimo 4-5 punti di gradimento in meno per il Presidente del Consiglio, e parlo da elettore di tutt'altra sponda Però al di là di questo, io credo che non penso che Merkel e Sarkozy abbiano influenza su una campagna elettorale in Italia, ma devo chiudere, chiudere. La culona inchiavabile, l'altro la moglie di Brunia, chi alla fine chi di gaff ferisce, di gaff perisce. Non riesco a dare altre diciamo interpretazioni, perché io sinceramente il danno dal punto di vista della credibilità del paese, dell'Italia, io non ce lo vedo. Grazie. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Cruciale la fa culo, non sarà un suo cruciale. Io preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare. Cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamola com'è. E la patonza deve girare. Radio 24. La passione si sente.